Italia in controluce. Benvenuti in Italia in controluce, il programma della redazione di Radio 24 dedicato alla cronaca italiana, alle storie di Nera, di Bianca, ai casi giudiziari e problemi, alle eccellenze delle città, alla cultura, allo spettacolo e al costume. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La prima traccia d'Italia in controluce è un viaggio nelle nuove povertà a Milano e, come un classico della nostra tradizione, si parte dalle storie e il racconto di Alessandra Tedesco. Francesca, è un nome di fantasia perché la vera protagonista di questa storia preferisce rimanere anonima, ha 53 anni e un figlio a carico. Vive nell'Interland di Milano e lavorava come contabile in una piccola azienda da 3 anni. Nel gennaio 2009 perde il lavoro. Avevo chiesto un periodo di aspettativa che non mi è stato concesso per motivi familiari, che dovevo assistere una persona. Io non sapevo, l'ho saputo di recente, che comunque quando c'è da assistere un familiare l'INPS dà un periodo di diritto di astensione dal lavoro retribuita. L'azienda costringe Francesca alle dimissioni e con le dimissioni non si ha diritto al sussidio di disoccupazione. Sono sopravvissuta con la liquidazione e quei 2 soldi che mi ero messa via nei periodi diciamo in cui lavoravo bene. Praticamente mi sono rivolta alla parrocchia facendo la richiesta del Fondo Famiglia e Lavoro stanziato dall'Arcidiocesi di Milano. Mi hanno dato per 4 mesi 400 euro al mese. Il Fondo Famiglia e Lavoro è stato creato l'anno scorso per volere dell'Arcivescovo di Milano, proprio per aiutare chi perde il lavoro. I 2/3 dei beneficiari sono operai generici, ma se si considerano solo gli italiani, si scopre che ben l'11% di chi chiede sussidi al fondo fa parte di una fascia medio-alta come insegnanti e professionisti. Il direttore della Caritas Ambrosiana, Don Roberto D'Avanzo. Il Fondo Famiglia e Lavoro, quindi la crisi, ha collocato nell'area pericolosa dell'impoverimento una fetta significativa di italiani che fino a ieri non avrebbero mai immaginato di doversi rivolgere ai nostri servizi, ai nostri sportelli. E quindi una fetta significativa che non soltanto, ripeto, fa i conti con l'impoverimento, ma ahimè fa i conti anche con una umiliazione. Uno che non aveva mai dovuto chiedere niente a nessuno, che era stato sempre, che si era permesso anche qualche sfizio, si era permesso persino di accendere un mutuo per avere una casa tutta sua, possiamo ben intuire quale livello di frustrazione e quindi anche di disagio questa cosa porta con sé. A volte credo che non sia stato sufficientemente sottolineato, come dire, la conseguenza, le conseguenze psicologiche che questa crisi ha rappresentato. Chi si rivolgeva tradizionalmente ai nostri centri erano persone, come dire, già abbondantemente abituate a fare i conti con una precarietà. Queste persone, appunto, queste new entry che si sono affacciate ai nostri servizi sono persone non soltanto, appunto, impoverite economicamente, ma anche psicologicamente, con tutte le possibili conseguenze che questo può avere a livello di equilibri familiari. Alla Caritas, dunque, si rivolgono sempre più persone che fino a qualche tempo prima non avrebbero mai pensato di chiedere un aiuto economico. Una storia esemplare ci viene raccontata da Antonella Albarti, operatrice del centro d'ascolto Caritas di Cantù, in provincia di Como. Le storie sono tante, però in particolare mi ha colpito una coppia di italiani abbastanza giovani, sui 40 anni, con 2 figli, una ragazza adolescente, un bambino più piccolo, che entrambi sono stati colpiti dal problema della crisi, perché contemporaneamente marito e moglie, il marito è stato licenziato a causa della crisi e anche la moglie, anche lei è rimasta disoccupata. E questa è l'esempio di una famiglia che fino a, diciamo, pochi giorni prima viveva una situazione di normalità, direi quasi di tranquillità, e si è trovata appunto nel baratro. Italia in controluce. La seconda traccia ci porta in Nigeria, uno dei luoghi più insanguinati del mondo, e il viaggio di un immigrato extracomunitario verso l'Italia. Cristina Carpinelli. Un giorno un ragazzo di 17 anni riceve una telefonata a casa. È un amico. Gli dice di scappare subito perché la polizia lo sta cercando per arrestarlo. Il ragazzo si mette le scarpe, prende il telefono, una giacca, un po' di soldi e fugge. La polizia arriva a casa, distrugge tutto, minaccia, isola la famiglia. Ma Kalas è già lontano, a bordo di un autobus attraversa il paese e il suo paese è la Nigeria. La mia famiglia, le prima, la mia famiglia sta bene, ma quando io uscita tutto cambiato, polizia entra le case, noi il rutto tutto casa, anche macchina, tutto cambiato. Adesso la vita, le mie famiglia cambiato, non è come le prima, capito? Tutto cambiato. Kalas, che avete sentito, è nato nella regione del Delta del Niger, uno dei luoghi più insanguinati del mondo, dove la parola polizia non significa ordine pubblico e difesa dei cittadini, ma il contrario. Kalas ha 17 anni, gioca a calcio e canta hip hop all'interno di una band di amici. Ma Kalas è soprattutto un ragazzo generoso. Dall'alto del suo talento di bomber comincia a parlare di diritti, di bambini che muoiono di dissenteria perché l'acqua è infetta, di famiglie sterminate. Kalas comincia cioè a diventare scomodo perché smuove le coscienze. Per questo è ricercato e per questo fuggirà. A volte succedono cose però che non potresti spiegare se non attraverso il caso. Ed è per caso che Kalas, arrivato in Italia, incontra Goffredo De Pascale, un giornalista che raccoglie la sua storia in un libro dal titolo Africa Bomber, edito dalla ADD. La storia di Kalas mi ha colpito perché quando tagli così improvvisamente e radicalmente i legami con la tua terra, i tuoi affetti, e poi appunto, come dicevi tu, a 17 anni, la vita ti cambia completamente, radicalmente. Devi attraversare fisicamente dei luoghi impervi. Lui attraverserà il Sahara, quindi oltre 1300 chilometri, lo farà a dorso di un cammello assieme a una persona, un altro nigeriano che ha un'altra storia perché è un ladro, ma è nella tragicità di questo viaggio c'è anche, diciamo, la disperazione, man mano che va avanti, la disperazione di comprendere, capire che lui non tornerà più indietro, che gli ostacoli che incontra sono tali che mettono a rischio, a repentaglio la sua vita, ma al tempo stesso è sempre più convinto che non tornerà indietro. La storia di Kalas ha ora tre amici: Goffredo, il calcio e la musica. Ancora Goffredo De Pascale. Una volta riconosciuto lo status di rifugiato politico, non ha la possibilità, perché insomma non gli viene messo a disposizione altro che non la possibilità di essere ospite alla Caritas, e arriva a Todi perché la Caritas di Todi gli offre un letto oltre che dei pasti. E lì, mentre gioca a pallone nel campetto, viene notato da un poliziotto che nel tempo libero segue le giovanili, nota appunto che è un ragazzo di talento e lo segnala al presidente del Tuoro. Lì insomma poi verrà preso dal Tuoro e quest'anno gioca col Tuoro Calcio, che è una piccola squadra di Tuoro sul Trasimeno, ma per lui significa ricominciare, rinascere, perché poi nel frattempo lui ha appena compiuto 20 anni, sono passati 3 anni dall'inizio della sua fuga e voglio dire, la situazione nel suo paese è sempre più drammatica. È il calcio soprattutto che salva Kalas. Tutto avviene nella città di Tuoro. Si gioca anche calcio qui e speriamo bene. Sei un bomber tu? Sì, io sono punti, centrapunti, sì, bomba. Nella drammaticità di questa storia c'è comunque un ragazzo di 20 anni che guarda la televisione e ha degli idoli, come il calciatore Balotelli. Mi piace lui, perché lui io gioco come lui, ha capito? Sorride a stento Kalas, è segnato dal dolore di non poter più tornare a casa. Adesso ha 20 anni, la madre è morta per un male incurabile senza poter salutare il figlio. La sorella fatica a finire gli studi e tutto si muove in una nebbia che soffoca il respiro. Però Kalas ha trovato un posticino nel mondo e nonostante tutto, da questo posto parla ancora agli altri perché sa che la parola, la testimonianza, più di altro, rompono l'indifferenza e l'apatia. Lo sa bene anche Alma Petri, la vedova di Emanuele Petri, l'ispettore ucciso dalle Brigate Rosse il 2 marzo del 2003. Alma Petri è di Tuoro. Viene a sapere della storia di Kalas ed è la prima ad impegnarsi perché il ragazzo si senta meno solo e meno triste. Abbiamo provato a contattarla, ma non c'era, o forse non voleva dare visibilità a una generosità che alla signora Petri viene naturale. Termina qui Italia in Controluce, seconda edizione, radio24.it è il nostro sito, Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook, la mail controluce@radio24.it. Domani 6:30 su Radio 24, la seconda edizione.